Bene, adesso canterò un altro brano e sceglierò un effetto sonoro a caso, questo. Questo non va bene, sceglierò questo. Questo neanche va bene. Ok, sceglierò il pianoforte per eseguire questo brano che ha un titolo non provvisorio. Il titolo di questa canzone è Arlecchino Cinema, fra l'altro è anche piuttosto a tema, visto l'avvicinarsi del carnevale. Quindi cercherò di eseguire questo brano sbagliando il meno possibile. Vi ricordo che questo è il mio debutto come pianista. Grazie, non è facile.